Sera nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 3 settembre, il sole in regione sorto alle 6.30 e tramonterà alle 19.43. La luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Rita Micoli e Armando Mucchino. I titoli. Agricoltura e maltempo, a chi rivolgersi e cosa fare per ottenere i ristori dei danni patiti dalle grandinate dello scorso luglio. Le sacre del Friuli, momenti di festa che affondano le radici nella vita della gente dei campi tra sacro e profano. Che fare per curare le piante da frutto devastate dalla grandine, la soluzione delle reti quale difesa per salvare le produzioni. Per la rubrica dei sommelier, prima di una serie di puntate per capire come leggere correttamente le carte dei vini e capirne i segreti. Parte una nuova rubrica sulla conservazione e trasformazione dei prodotti della terra, dall'orto al campo per arrivare a marmellate, conserve e affini. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana entrante, è il proverbio friulano della settimana. A più di un mese dal maltempo dello scorso luglio e inizio agosto ci sono ancora tante aziende agricole alle prese con l'emergenza dei danni causati dalla grandine e dal vento. Tanti agricoltori si stanno chiedendo cosa possono fare e chi li può aiutare a superare questo periodo difficilissimo. Ci dà una mano a capire come Marco Malison, responsabile tecnico economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Iniziamo però dalle assicurazioni. Sì, diciamo che se noi pensiamo a quello che è successo nel 2021 con la gelata, nel 2022 con la siccità e quest'anno con il maltempo grande in evento, emerge chiaramente l'importanza delle assicurazioni per garantire la stabilità del reddito delle imprese agricole. E quindi le assicurazioni devono essere viste non come una spesa corrente ma come un investimento da parte dell'impresa. In Friuli Venezia Giulia siamo abbastanza virtuosi, siamo una delle regioni che percentualmente assicura di più, soprattutto nel settore viticolo per il ramo grandine, ma c'è ancora margine di miglioramento in tutti gli altri settori e in tutte le altre avversità. Detto questo, diciamo che per quanto riguarda quello che è successo a partire dal 13 luglio e fino al 6 di agosto, sono più eventi che si sono stratificati in alcuni casi sulle stesse superfici. Si parla complessivamente in regione fra danni alle coltivazioni e danni alle strutture, agli autoveicoli, alle macchine, di un danno di circa 1,5 miliardi. Un terzo circa probabilmente riguarda le coltivazioni, ma su questo l'ispettorato agrario sta ancora facendo e completando i rilievi. Ecco, io dividerei le cose appunto fra una linea di intervento che riguarda le produzioni agricole in campo e invece una linea di intervento, anzi più linee di intervento, che riguardano le strutture produttive. Per le colture ci sono delle linee di credito, delle linee di finanziamento, delle linee di ristori a parte? Per le colture, diciamo, c'è la possibilità di richiedere una deroga alle previsioni del decreto legislativo 102 del 2004, per intenderci il fondo di solidarietà nazionale, che era già stato peraltro attivato in passato, gli agricoltori lo ricorderanno, per i danni da cimice marmorata asiatica piuttosto che per la gelata e per la siccità, e verosimilmente sarà attivato anche quest'anno, per cui quando l'ispettorato agrario avrà terminato di fare i rilievi scatteranno i canonici 45 giorni per presentare le domande. Normalmente queste domande si fanno attraverso un applicativo che ha messo a disposizione la direzione regionale presso le organizzazioni agricole. Questo per quanto riguarda le colture. È chiaro però che, diciamo, le aspettative di ristoro da questo punto di vista con questo canale sono decisamente molto più limitate rispetto a quello che può dare un'assicurazione, questo bisogna dirlo. E poi ci sono le strutture e soprattutto nelle strutture ricadono anche le scorte. Sì, diciamo nelle previsioni invece degli aiuti della protezione civile Ecco, qui l'assessore delegato ha già, diciamo, emanato un decreto il 1° di agosto con l'individuazione dell'areale di ben che 153 comuni fra le province di Pordenone, Udine e Gorizia. Ecco, qui c'è anche una modulistica che è stata approvata dalla Giunta. Adesso vedremo se sarà informatizzata anche questa oppure no. E riguarderà danni a autoveicoli, danni, diciamo, a abitazioni, diciamo, le prime case, no? Fino a un massimo di 5.000 euro di danno. Oltre questo livello di danno o per altre strutture abitative ci sarà un'altra domanda. E invece, per quanto riguarda l'agricoltura, ecco, c'è una modulistica specifica, anche qui divisa a seconda che il danno sia maggiore o minore di 20.000 euro, che riguarda appunto i danni a attrezzature, i danni a, diciamo, i fabbricati e anche eventualmente le perdite di scorte agricole, come potrebbe essere foraggio, insilati piuttosto che granelle che fossero stati stoccati dentro fabbricati che sono andati in qualche modo danneggiati e quindi l'acqua ha danneggiato le derrate. E poi ci sono i fondi del fondo di rotazione. Sì, beh, questo è un intervento che è stato approvato nell'ultima giunta regionale e che prevede appunto l'estensione di quello che noi chiamiamo il programma russo-ucraino, no? Quindi la possibilità di erogare finanziamenti a tasso agevolato, sostanzialmente a tasso zero, con la possibilità da parte del fondo di rotazione di remissione del 40% del debito. Questa iniziativa però riguarda specificatamente il rifacimento di coperture di fabbricati ad uso zootecnico solo su alcuni comuni, 13 comuni, qualora queste coperture fossero appunto fatte in amianto, fibrocemento o vetroresina. Uno dei vanti dei friulani è certo quello di essere grandi organizzatori di sagre e feste che affondano le radici nella cultura e vita del popolo, un mix di sacro e profano strettamente legato alla vita nei campi. Estate friulana. Alle prime luci della sera, il viandante che si trovasse a percorrere le contrade dei borghi contadini e le piazzette dei nostri paesi, tanto che si tratti della bassa, cotta e strangolata dal sole, o tra le verzure della mezza montagna, già sentirebbe uno sfrigolar di grattelle che impregna l'imbrunire di sugose promesse. Di certo qualcuno ha già tirato su un palco pronto ad accogliere i musicanti che si avvicenderanno sul brear, le assi della scena. Nell'alternarsi del pubblico si passerà dalla più tradizionale staiare alle atmosfere pop, rock, dub che gli avventori più giovani, quelli meglio disposti a tirare tardi, sembrano apprezzare di più. Un sapiente ammiccamento di luci, l'amplificazione giusta e il gioco è fatto. Vai col liscio. A distanza di sicurezza, per la potenza in decibel delle casse, non troppo lontano, sorgerà sicuramente un assemblaggio zingaresco di baracconi che vanno dalle giostre per i bambini, sempre più vintage, con tanto di cavallini rampanti ed elefantini volanti, fino a veri e propri strumenti di tortura barbarici, braccia meccaniche, ruote giganti che sparano folle urlanti di adolescenti adrenalinici contro ogni legge di gravità vigente sotto il cielo della luna, a condire il tutto un odore intenso di frittelle, zucchero filato e popcorn. Nella cultura popolare e paesana del Friuli rurale, questo è da sempre un tempo carico di quella forte intersezione che tiene insieme i santi e i peccatori, la processione curiale e la sbornia sporca, il precetto e la bestemmia. Stiamo parlando, come ormai chiunque avrà capito, della sagra. Quella condizione dello spirito talmente connaturata alle genti di questa terra che si potrebbe partire dalla fine di giugno e arrivare a settembre inoltrato, segnando sul calendario una perpetua erranza alla ricerca del frico migliore, della polenta più grande, della birra più fresca e pannosa. Sembra quasi che, se in ogni cortile friulano che si rispetti ci debba necessariamente stare una betoniera pronta alla bisogna, nel retro della chiesa o nell'orto prospiciente la canonica, Salsiccia e Costa devono sudare in bella compagnia i loro peccati sulla brace, invocando la protezione del patrono di turno. Sagra deriva infatti da sacra, si consumava sul sagrato della chiesa, nel tempo in cui fare festa significava rendere grazie per la stagione, il tempo, il raccolto, la fatica. Dopo una certa ora, lucciole, grilli e falene offrono ancora effetti speciali capaci di emozionare. perfino a spina staccata. Inevitabile anche nella rubrica della frutticoltura parlare dei recenti eventi atmosferici e soprattutto come soccorrere quelle povere piante devastate dalla grandine. Ci dice come il professor Raffaele Testolin. Quest'anno il Friuli, più che in altre stagioni, è stato flagellato dalla grandine. Tra il 24 luglio e il 6 agosto il maltempo ha colpito con insistenza dal Pordenonese alla media pianura friulana fino al Goriziano. Particolarmente drammatica è stata la bufera che ha colpito la zona di Mortegliano con fulmini, vento fortissimo e chicchi di grandine grossi come palle da tennis che non hanno lasciato scampo alle colture, per non parlare di tetti, pannelli fotovoltaici, auto e quant'altro. La gente si domanda, è colpa dei cambiamenti climatici? Beh, direi che è sempre tardi per renderci conto che è così. Ne ha parlato Cristina Micheloni a luglio, prima della chiusura della trasmissione per la pausa estiva. Torniamo sull'argomento senza voler illudere nessuno. Rimedi per quest'anno non ce ne sono, a parte un recupero con semine tardive di mais e soia a ciclo breve per chi è stato tempestivo. Per piante da frutto e vite, fatto il trattamento con rame e altri prodotti per preservare quanto rimasto da attacchi di patogeni, non resta che raccogliere quanto di buono è rimasto e aspettare l'inverno per riordinare le piante. Se la grandine fosse avvenuta prima, diciamo entro la metà di luglio, si poteva con le potature stimolare almeno la vite a ricacciare per l'anno seguente. Con grandinate così tardive il risultato non è garantito e si rischia di lavorare per nulla. Due parole per il futuro, considerando che, purtroppo, eventi così drammatici si ripeteranno con una certa frequenza. Per quanto riguarda le colture annuali, non vedo altra soluzione che sostituire le colture tipiche come il mais con sorgo da granella, certamente più tollerante a vento e grandine del mais, mentre la soia può essere ripetuta come abbiamo visto in un secondo raccolto o sostituita da altre leguminose a ciclo breve e precoci. Per le orticole il discorso è più complesso e rimando eventualmente a un'altra puntata. Le piante da frutto ormai non si possono più fare in regione senza una adeguata copertura antigrandine accompagnata da un'assicurazione per gli eventi più drammatici che possono rovinare le coperture se il bilancio economico ovviamente lo permette. La vite vendemmiata a macchina non ha soluzioni per quanto riguarda le protezioni, mentre dove per ragioni diverse si vendemmia a mano, la copertura antigrandine è certamente una buona soluzione. Del resto, i vigneti del Ramandolo insegnano da anni. Tra l'altro, le coperture a parete verticali possono avere costi inferiori perché non richiedono strutture di sostegno impegnative. Secondo anno per la rubrica dei sommelier. Oggi Vladimiro Tulisso, che c'è la cura, ci spiega come leggere, utilizzare, capire e anche sapere quali sono i trucchi per sfruttare al meglio una carta dei vini. Finita l'estate, con il rientro in città ritorneremo a frequentare i nostri ristoranti preferiti ed è normale che prima di una cena ci venga chiesto cosa desideriamo bere. La scelta del vino da abbinare al cibo non è mai banale. La mossa più opportuna è chiedere la carta dei vini. Ormai quasi tutti i locali ne hanno una, magari stringata, ma una lettura è sempre consigliata. I vini sulla carta generalmente hanno una prima suddivisione per tipologia: spumanti, bianchi, rosati, rossi e dolci, e successivamente per zone di produzione o per vitigno. Non troveremo purtroppo indicazioni sugli abbinamenti. Per questo, se non siamo in grado di decidere da soli, potremo sempre contare sull'aiuto del sommelier o del cameriere. Consultare la carta dei vini non è sinonimo di snobismo, ma un esercizio che darà valore al cibo e pertanto rinunciarvi e trascurare un elemento importante per il successo della nostra esperienza gastronomica. Le carte dei vini inoltre riportano il costo delle bottiglie, elemento che potrebbe guidare la scelta ed evitare sorprese nel conto finale. I prezzi dei vini in ristoranti sono più alti di quelli applicati dalle enoteche e ovviamente dei prezzi all'origine in cantina. Sono aumenti giustificati dalla necessità del ristoratore di coprire i costi di gestione della cantina, i rischi legati alla conservazione e il servizio che di solito prevede bicchieri di maggior pregio in tavola. Generalmente i ristoranti costruiscono il prezzo finale raddoppiando il costo d'acquisto, un aumento del 100% destinato a ridursi se il costo del vino all'origine è già alto, affinché il prezzo al consumatore non risulti eccessivo. La carta dei vini è essenziale per la credibilità del ristorante. A prescindere dal numero delle etichette presenti, mai indicativo della qualità del locale, la carta deve essere ordinata, pulita, senza sgualciture né cancellature o aggiunte, per evitare che la scelta del vino risulti per il cliente fonte di imbarazzo o nervosismo quando dovrebbe essere un piacere. Infine, fatevi lasciare il tappo sul tavolo. Potrà sempre essere utile richiudere la bottiglia se ci fosse rimasto del vino. L'avete pagata ed è corretto portarla via. New Entry oggi a Vita nei Campi. Si inaugura una nuova rubrica con Michela Urbano, studiosa di cibo, cucina e mondi correlati, che ci parlerà della trasformazione del cibo, della trasformazione dei prodotti della campagna. Oggi ci legge la poetica, passateci il termine, di questa sua rubrica. Conservare, che parola meravigliosa, dal latino con e salvare. Servare. Conservare è un connubio indissolubile tra sapere e sapore, come direbbero gli antichi e gli studiosi dell'antichità. Questa antica arte trova origini molto lontane, quando il sapere era un'urgenza strettamente correlata alla sopravvivenza. Da allora molte cose ovviamente sono cambiate. Il sapere, inteso come tecnica di conservazione degli alimenti, si è affinata e la ricerca del sapore, oggi, quando non industriale, diventa soprattutto un valore simbolico, una memoria familiare prima che culturale. La società contadina, con le sue tradizioni, i suoi valori e le sue azioni, rimane depositaria di saperi antichi, fondamentali per la sopravvivenza dell'uomo, ieri quanto oggi. Ecco dunque che conservare permette di salvare, in un abbraccio simbolico, la stagionalità e i prodotti del territorio, tramandandoli di generazione in generazione attraverso il sapore. Parlando di memoria del sapore, non possiamo che fare riferimento alla dispensa. Aprendo quelle ante, ritroviamo il fermo immagine di stagioni, dove lo sciroppo di sambuco e la confettura di fragola si contendono lo spazio con i vasi delle conserve, dei sottolli e dei sottoaceti. Appese poco distanti, le erbe aromatiche, ben essiccate, aspettano di evocare l'estate, tuffandosi in zuppe e in tingoli dei mesi più freddi. I più fortunati, in questo nostro ricordare, potranno aprire la porta della cantina, dove vapori aromatici anticipano ciò che la penombra suggerisce. Salami, soppresse, cottecchini attendono sospesi di essere amorevolmente accuditi accanto a forme di formaggio dal peggio. Fotogrammi di vita, dunque, e tacitamente raccontano di camminate primaverili, dopo un'acquazzone, di piedi scalzi in giornate torride, del profumo di sottobosco in un porcino inaspettato, ma anche di rituali legati allo scorrere delle stagioni, nelle aie, nei cortili e negli orti. Parole di noi chiuse dentro ogni vasetto, saperi tramandati, che attendono l'occasione di esprimersi e non soltanto in dolcezza e sapidità. Un'arte antica, infiaccata da ciò che l'innovazione tecnologica ci suggerisce. Di questo e di molto altro andremo raccontando nelle prossime puntate. Con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Riprendiamo i mercati dopo la pausa estiva del mese di agosto, con le contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove venerdì scorso ha avuto un mercato debole con prezzi di diminuzione. e il mais, con umidità 14%, è stato quotato fra 22,10 e 22,40 euro al quintale, IVA esclusa. Il frumento tra 21,90 e 22,40. L'orzo, per lo specifico 62,65, tra 17,70 e 18,20. Rispetto ad un anno fa, il mais è diminuito di 13 euro e 20 centesimi il quintale e il frumento di 13 euro e 60 centesimi. Fiacche le contrattazioni all'ortofrutticolo di Udine con prezzi leggermente in rialzo, in particolare gli ortaggi. L'insalata gentile viene quotata da 1,80 a 2 euro il chilo IVA esclusa, la lattuga Trocadero tra 2,30. Le zucchine tra 1,40 e 1,50, i finocchi tra 2,80 e 3 euro, la scarola riccia tra 3 e 3,50, le melanzane tonde da 1,40 a 1,60, i peperoni gialli e rossi italiani tra 2,50 e 2,80, il radicchio rosso tondo da 3 a 3,50, quello di Treviso da 3,50 a 4 euro, i meloni tra 1,50 e 2 euro, le angurie da 0,80 a 1 euro, pesche e pesche noci da 1,50 e 2 euro e l'uva italiana tra 2,60 e 2,80. Nel comparto caseario la commissione camerale di Pordenone e Udine ha determinato il prezzo del latte crudo di vacca di origine Friuli Venezia Giulia, quotandolo in ribasso tra 50 e 50 e 53 e 50 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Prezzi riflessivi nel comparto dei foraggi, con un lieve calo dell'erba medica che viene quotata tra 21 e 22 euro il quintale IVA esclusa. Il fieno maggengo di pianura si paga tra 12 e 13 euro e la paglia di cereali pressata si quota tra 8 e 10 euro il quintale. E con il previsore dell'ARPA Marcellino Salvador diamo uno sguardo al tempo che farà la settimana entrante. L'estate meteorologica si è chiusa ufficialmente il 31 agosto ed ha avuto una temperatura media nella norma o leggermente più alta in regione, anche se l'andamento termico è stato tutt'altro che regolare, ma bensì caratterizzato da grandi sbalzi termici da una settimana all'altra. Non si è ripetuta, fortunatamente, l'estate dello scorso anno, ma i danni che localmente hanno fatto i temporali sono stati rilevanti e talvolta eccezionali. La prossima domenica faremo un bilancio più completo di quest'estate. Dal punto di vista pratico, dando un'occhiata alle proiezioni disponibili, possiamo dire che l'estate continuerà tranquillamente ancora almeno per 10 giorni. L'alta pressione si va rinforzando sull'Europa centrale e sul nord Italia. L'anticiclone caldo si affermerà in modo deciso da giovedì prossimo. Pertanto nei prossimi 3 giorni avremo bel tempo con afflusso di correnti moderate di bora al suolo che manterranno le temperature massime poco sotto i 30 gradi in pianura con minime sui 15, mentre se avremo 20 gradi di minima sulla costa dove le massime saliranno fino a 26-27 gradi per la bora che sarà da moderata a temporaneamente sostenuta. Lo zero termico martedì salirà di nuovo a 5.000 metri, un'altitudine di per sé eccezionale, ancor di più perché stiamo parlando di settembre. Nella seconda parte della settimana sarà ancora estate piena con massime sui 30 gradi o anche oltre per quanto riguarda la pianura e sui 28 sulla costa. Non sono previste precipitazioni per tutta la settimana, nemmeno sui monti, dove il periodo sarà davvero splendido. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi ad un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Salebbe un timpi di San Gorgon, la vendeme va benò, ovvero se il tempo è buono, il giorno di San Gorgonio martire, il 9 settembre, ci sarà una buona vendemmia. Coordinamento tecnico di Daniel Apposto, il nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.